Capitolo secondo, in cui il mago Baol racconta la sua triste storia e, come previsto, si mette nei guai. 8. Sono passato dalla stazione. Forse volevo partire, o sognare che arrivasse qualcuno. Ho comprato a un chioschetto un panino al vorrei essere formaggio e magari fossi maiale, e 4 bonsai di Fernet. Mi sono seduto a guardare il transito. Passavano giapponesi zainuti che reggevano sulle spalle sacche enormi, contenenti forse un altro giapponese pronto a dare il cambio. Iperborei con lunghe gambe color mazzancolla, tedeschi con valigie addestrate che li seguivano sulle rotelline, americani con cartucciere di carte di credito e insieme a loro emigranti e immigranti frollati da ore di treno, con mogli omofone o allofone. Nonne pelle rossa, figli meticci biondi con sopracciglia nere e felidi rosse su volti mediterranei, vergogna e orrore per le lighe della difesa della razza e del panettone. E poi una ventina di ultra, che augurava morte e menischi a una squadra rumena, e diverse tribù di extracomunitari che cercavano un posto da dormire per la notte. È arrivato un cellulare di poliziotti e hanno cominciato a controllare i documenti. Ogni tanto sbattevano dentro qualcuno. Due negretti hanno cercato di scappare. Mi sono sfrecciati davanti, uno ha perso una scarpa. Li rincorrevano due o tre ramboidi dotati di manganello. Ho eseguito il primo trucco Baol che ho imparato nella mia carriera, lo sgambetto. Mi è riuscito. Dopo è toccato a me di sfrecciare. Ora sto all'apocalipso, col fiatone, steso su una sedia come un pugile alla 15ª ripresa. Galles mi guarda preoccupato e litiga con i clienti. La voce di Grappatax mi risuona nella testa. Al diavolo, uno non può fare l'eroe tutta la vita. Anzi, il più delle volte, non può farlo per più di 10 minuti. Certo, in quei 10 minuti si vedono le cose diversamente. Stasera la città è elettrica. Ci sono un concerto rock, il motor show e un'esecuzione. C'è molta gente venuta da fuori. I preti pazzi hanno invaso le strade scandendo slogan contro la corruzione dei costumi. Nel quartiere blu hanno ucciso una donna per rossetto non regolamentare. Davanti al Palace Vanesium, dove c'è il concerto, un cantante è stato ucciso da una macchina lanciata dal tetto di una casa. Era il cantante preferito dei socialloschi ed era il 16° nella classifica mensile di popolarità. Si sospetta che l'autore dell'attentato sia il numero 17, un noto industriale e velista. Farebbero qualsiasi cosa per salire in classifica. Così ora c'è molta tensione e si spara da ristorante a ristorante. È passata un'ora. Galles, per tirarmi su, mi ha preparato un Gordon Pym, ghiaccio, gin e fernet bianco. Una delizia. Mentre tracannavo, mi è sembrato di vedere un bruco alto e verde, che mi spiava tra le macchine posteggiate, nel giallo malaticcio che piove dall'insegna dell'apocalipso. È entrato un gruppo di ragazzetti acid, vestiti da cicloturisti, e faceva un gran casino, allegro, ma sempre casino. Poi è entrata una vecchia, con chitarra elettrica e carriola con l'amplificatore. Si è messa a cantare quella canzone maledetta piena di ricordi. Mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo, mi han detto che ti piacciono i tipi come me. Perché son finito qui? Quando è che le cose hanno cominciato ad andare storte? Lei era alta e bionda, anche se portava i tacchi ed era tinta. Era una grande prestigiatrice, sapeva distrarre il pubblico. Un sorriso, una vampata di capelli, 1,5 metri di gambe. Ma era brava, proprio brava. Viaggiammo insieme per qualche anno. Ci amavamo. Facevamo l'amore dappertutto. A me piaceva la riva del mare, a lei gli autoscontri. Un giorno la notò un selezionatore del regime. Un tipaccio con mocassini di visone e un orologio digitale antisismico battipelagico con l'orario delle maree e delle comete. Ma devo interrompere la love story. Il bruco è entrato e mi guarda. Caro, carissimo, quanto tempo che non ti vedevo. Zai un po' sbronzo o sbaglio? Non ci metto molto a capire chi è il bruco. Sono i 3 nani, uno sopra l'altro, infilati in una palandrana verde. Quello in cima è Raoul. «Chi è lei?» dico, facendo finta di niente. «Mi chiamo Mr. Triplex», strizza l'occhio Raoul. «E mi hanno detto di parlare con un zignore raffinato». «Prende qualcosa, Mr.» Triplex spazzola 9 brioche a 3 livelli e mi guarda con 6 occhi indagatori. «Allora che si fa?» dice. «Chi vi ha detto che si fa?» «Guardi come si è ridotto per averci detto di no. Lei è dei nostri, Badrosian Melchiade Baol». «Ho detto di no». «Ha detto di no, ma noi abbiamo capito che era sì». Sospiro. Hanno ragione gli gnocchetti. Va sempre a finire così. aiuterò Grapatax. Come dice il Baolian, la vita è come l'anticamera di un dentista. C'è sempre uno che sta peggio di te. Per prima cosa, osservo, ci vorrebbe una mappa del posto. Abbiamo di più, disse Bobo, sporgendosi dal cappotto. Abbiamo dei collegamenti, parecchi amici, uno anche nei sotterranei dell'inferno. Questo è il nome del tuo primo collegamento, dice Nick, sbucando a rasoterra e porgendomi un block notice. Imparo la memoria e poi ingoia tutto. Dammi solo il foglietto col nome, dico io, non ho appetito. Auguri, amico Baol, dice Raul solennemente, porgendomi la mano di Bobo. Con il tuo aiuto sono certo che vinceremo e abbatteremo il regime tiranno dittatorial cinico lussista e la sua oppressione capital stilista nazico informatica groviglio catolipanica.